Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Speciale Premio Leonardo di Alessandra Scaglioni. Puntata speciale di Voci d'impresa dedicata al Premio Leonardo, il riconoscimento conferito ogni anno a imprenditori italiani o stranieri che contribuiscono ad affermare l'immagine del Made in Italy e la qualità del sistema Italia nel mondo. Oggi vi raccontiamo la storia di alcune delle imprese che sono state premiate quest'anno. Il Premio Leonardo è andato a Piero Antinori, presidente di Marchesi Antinori, uno dei più importanti imprenditori nel settore vinicolo italiano. Cognome importante nobile, di antica famiglia patrizia toscana, nota nei decenni più recenti per il successo internazionale dei suoi vini Super Tuscans. Ha un fatturato superiore ai 130 milioni di euro, in crescita dopo il biennio di crisi del settore 2008-2009, grazie soprattutto all'export. Dottor Antinori, lei è il premiato, un riconoscimento al Made in Italy più classico, perché si è stato premiato lei, ma sono stati anche premiati imprenditori nei tessuti, nella sartoria, nell'arredamento. Insomma, alla fine il Made in Italy vincente sembra essere quello più tradizionale. Beh sì, questo è un po' lo scopo anche del Comitato Leonardo, di premiare proprio questo tipo di attività economiche che valorizzano il Made in Italy e che sono i migliori ambasciatori dell'Italia nel mondo e che naturalmente non sono soltanto il design, l'arredamento, ma insomma nel corso degli ultimi anni ci sono stati tutti i settori che sono stati premiati, ma con particolare riguardo a quelle attività che aumentano il prestigio del Made in Italy nel mondo. E in questo senso credo che anche il premio che ho avuto io sta un po' in questa direzione, perché devo dire che tutto il settore che io rappresento negli ultimi 20-30 anni è stato veramente un simbolo del Made in Italy più qualificato e più prestigioso nel mondo, quindi ha contribuito anche all'immagine dell'Italia e del nostro paese in tutto il resto del mondo. Anche io vorrei che ci raccontasse un po' della storia dell'azienda, quando i primi passi. Proprio. La storia è una storia molto lunga, perché la mia famiglia ha cominciato nel 1385 a produrre vino e da quel momento, generazione dopo generazione, diciamo, non c'è mai stata un'interruzione, c'è stata una continuità straordinaria. E noi siamo ormai alla 27esima generazione e quindi ci auguriamo che ce ne sia perlomeno altre 27 in futuro. Detto questo, però, devo anche dire che negli ultimi 30-40 anni c'è stato anche uno sviluppo notevole, dovuto anche al fatto che tutto il nostro settore della produzione vinicola di qualità in Italia si è molto sviluppata e anche di complementarietà, perché il design ha fatto bene all'alimentare, la tecnologia italiana ha fatto bene alla moda, insomma c'è stato veramente una sinergia fra i vari settori che hanno fatto sì che il Made in Italy ha raggiunto dei livelli di grandissimo prestigio e quindi l'Italia del vino di qualità ha fatto negli ultimi 30 anni dei passi veramente da gigante. Quindi questo per dire che anche se la nostra azienda ha una storia molto lunga, però è soprattutto negli ultimi 30-40 anni che, approfittando di questa nuova contesto in cui operava, si è sviluppata in maniera notevole. Ecco, la crisi ha avuto delle ripercussioni sulla vostra azienda e se sì, come l'avete gestita? Ha avuto qualche lieve ripercussione soprattutto nel 2009, dopodiché la diminuzione che c'è stata e continua a esserci un po' sul mercato interno è stata ampiamente compensata invece da un aumento nelle esportazioni. Il nostro prodotto è un prodotto che non è un prodotto maturo, ha ancora un trend di crescita nel mondo. Bisogna approfittare di questo trend positivo e cercare di consolidare le nostre posizioni. Ecco, per esempio, dove nel mondo? Quali sono i nuovi mercati? Beh, ci sono dei mercati tradizionali che sono Nord America, Stati Uniti e Canada, l'Europa. Ci sono dei mercati più recenti, ma che ormai sono già diventati importanti, come la Russia, anche il Brasile, e poi ci sono i mercati, diciamo, veramente emergenti, come i mercati asiatici, la Cina, che promettono veramente degli sviluppi interessantissimi nel medio-lungo termine, Per ora siamo in una fase più di semina e non di raccolta, quindi stiamo investendo in quei mercati, convinti che diventeranno dei mercati molto molto importanti, per acquisire anche una posizione come prodotto italiano interessante e solida, convinti che nel giro di qualche anno potranno diventare dei mercati, fra i primi mercati importatori dei nostri prodotti nel mondo. Il premio Leonardo Qualità Italia è andato invece a 5 aziende italiane, tra queste a Cartel e al suo presidente fondatore Claudio Luti, che ha rilevato nel 1988 l'azienda dopo essere stato cofondatore ed amministratore delegato della Versace S.p.A. Cartel è un'azienda che produce oggetti e arredi utilizzando materiali plastici e design. Ha un fatturato superiore ai 100 milioni di euro, 280 negozi monomarca nel mondo ed è 9 volte vincitrice del Compasso d'Oro, l'Oscar del design. Claudio Luti, innanzitutto ci può descrivere la sua azienda? È un'azienda che ha più di 60 anni, è nata nel 49 e è già nata con la giusta strategia, che era un'azienda di innovazione tecnologica, però molto legata alla collaborazione con i migliori design per dare anche la qualità del segno e lavorare in collaborazione. Questa cosa è successa negli anni 50, è successa negli anni 60 e è sempre stata sviluppata. Io sono arrivato nell'88 a comprare la carta, a dirigere la carta, e non ho fatto altro che continuare questa strada, rimanere un'azienda assolutamente industriale, con molta attenzione all'innovazione e cercando di attorniarmi dei migliori designer che avessero lo stesso spirito di fare dei prodotti industriali. Cosa significa prodotti industriali? Prodotti che devono vivere una lunga vita, devono essere venduti in grandi numeri, può essere una sedia, può essere un componibile, tutti i prodotti che facciamo per la casa, ma devono avere una grande qualità e devono dare anche un'emozione per poter uscire da soli dalle vetrine. Non è un prodotto che deve essere acquistato solo con l'ausilio dell'architetto, ma deve essere acquistato spontaneamente in tutto il mondo come un prodotto consumabile. E questo, cercare della ricerca, mettere qualità, fare innovazione, avere una collezione che diventa sempre più ampia, riuscire ad avere tante vetrine, perché adesso abbiamo più di 350 negozi monomarca in giro per il mondo, più abbiamo 2000 clienti, diventa un brand e questo, se fatto bene, porta del successo. Ecco, la crisi che ruolo ha avuto? Ma la crisi, ci possono essere sempre le crisi, sentito? Ma io non cambio assolutamente strada anche alla crisi, ossia la crisi di questo momento abbiamo sentita in piccola parte in Italia negli ultimi 3 mesi, però lavorando in 100 paesi ammortizziamo quelli che possono essere i problemi della Grecia, dell'Italia o della Spagna con maggior valore della Cina, maggior valore dell'Australia, maggior valore dell'America del Sud, e quindi penso che dobbiamo diventare sempre più internazionali. Quando io ho iniziato a lavorare c'era un ufficio che era l'ufficio Italia commerciale, l'ufficio dell'export, adesso siamo divisi in 9 macro aree dove cerchiamo di controllarle tutte con gli stessi valori, con la stessa intensità e anche con le differenze che le varie aree hanno. Quindi io trovo che, crisi o non crisi, le aziende in questo momento, questo cambiamento della comunicazione, dei mercati, possono avere delle opportunità. Io vedo delle grandi opportunità, sono appena stato a fare praticamente il giro del mondo, ho fatto l'Asia, e poi dall'Asia sono passato all'America del Sud e poi sono tornato indietro all'America del Sud con grandissime aperture, con grandissime sfide, con grandissime opportunità. Ho visto gente che rispetta moltissimo quelli che sono i nostri prodotti, ha un grandissimo amore per l'Italia, nei settori dove l'Italia eccelle, ci riconoscono forse più all'estero che a casa nostra. Ho trovato emozionante andare a Città del Messico e avere 3 negozi Carter a Città del Messico, o andare in una piccola città brasiliana come Santos e avere un negozio bellissimo con tutti gli architetti che mi facevano festa, o andare a San Paolo con il mio amico Philip Stark e lanciare una nuova sedia, avere 300 giornalisti e 10 pagine sul quotidiano principale di San Paolo. Trovo fantastica questa disponibilità e trovo una grande opportunità. Trovo, per l'imprenditore che ha un'azienda, che ha un'anima, che investe per innovazione, deve essere per forza internazionale. Ormai le parole d'ordine sono queste: non è più possibile avere Milano come baricentro, bisogna avere la voglia di viaggiare, di confrontarci con la competizione mondiale. A una voce femminile, invece, la storia di un'altra azienda premiata. È la voce di Nicoletta Spagnoli, amministratore delegato di Luisa Spagnoli. Azienda in crescita anche in periodo di crisi, a seguito del restyling del marchio, con una rete distributiva di quasi 200 negozi tra Italia e estero e 134 milioni di euro di fatturato. Nicoletta Spagnoli rappresenta la quarta generazione. Nicoletta Spagnoli, un'azienda, la sua ce la può raccontare? Un'azienda, insomma, leader nell'abbigliamento? Un'azienda nata nel 28, quindi siamo alla quarta generazione. I primi passi furono dalla bisnonna che l'aveva creata, cioè mia bisnonna. Consideri che lei nei primi del Novecento ha fondato la Perugina e poi si era messa, appunto, si era appassionata di questi conigli d'angora e quindi si era dedicata alla lavorazione di questo pelo di coniglio. Aveva creato un laboratorio per le prove di lavorazione, di filatura di questo e di tintura di questo pelo di coniglio. Ha ottenuto un filato sottile e omogeneo da poter essere poi lavorato con delle macchine rettilinee, quindi aveva ottenuto dei morbidi capi molto soffici e che ebbero un grande successo allora, nella moda di allora. Questo venne nel 28, nel 35 poi è morta, quindi è stato poi mio nonno che ha portato avanti il sogno che l'aveva affiancata sempre anche dal tempo della Perugina, che ha portato avanti il sogno imprenditoriale di Luisa Spagnoli. E poi mio padre fino ai nostri giorni. Posso dire che è il frutto dell'impegno appassionato di tre generazioni di imprenditori che mi hanno preceduto, dalla bisnonna Luisa, dal figlio Mario, mio nonno, e poi da mio padre Lino. Sono tutti imprenditori che hanno portato qualcosa all'azienda e che hanno dato tanto, e quindi diciamo che la responsabilità mia, quella di adesso, è quella di consolidare e di ampliare il patrimonio che ci era stato affidato. Penso di riuscire a farlo e di essere riuscita a farlo fino ad ora. I tempi sono duri, ma penso che l'esempio di chi ci ha preceduto mi fa essere serena e avere fiducia in un futuro anche in periodo di crisi, affrontare anche con i tempi nuovi e duri con volontà e forza d'animo, che secondo me sono alla base di ogni storia di successo, non solo in economia ma anche in ogni aspetto della nostra vita. Lei come se lo spiega il successo della sua azienda? Ma io penso che ha saputo adeguarsi in qualsiasi momento nelle varie situazioni. Cioè il rinnovamento anche che c'è stato ultimamente, no? nel prodotto, poi anche non solo nel prodotto, anche nella stessa azienda, nell'immagine dei negozi, è tutto un insieme che ci ha portato al successo. Penso i nostri prodotti sono prodotti che hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo e per questi sono molto apprezzati sia dalle persone più giovani che da quelle più mature. Un target abbordabile da tutti, è questo che è importante, perché io penso che bisogna rivolgersi non a fasce, diciamo a tutti, quindi noi contiamo molto nel total look e quindi per noi è importante e lo curiamo molto. Le altre imprese premiate sono state Pietro Beretta S.P.A., Italy e Marinella. Si chiude qui questa puntata di Voci d'Impresa dedicata al Made in Italy nel mondo. Le interviste sono di Alessandra Schepisi. Appuntamento alla prossima settimana. Avete ascoltato Voci d'Impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.